Parte quinta. Addio alla fattoria. Capitolo primo. Tempi duri. La mia fattoria si trovava un po' troppo in alto per la coltivazione del caffè. Nelle zone più basse, in mesi freddi, si formava sempre la brina. I germogli delle piante di caffè e le giovani bacche appena spuntate la mattina diventavano tutte nere e appassivano. Dalle pianure soffiava un gran vento e anche negli anni migliori non un solo acro produceva la stessa quantità di caffè che i coloni raccoglievano in un chilometro quadrato nelle zone più basse di Tika e Kiambo a un'altitudine di 1200 metri. Non pioveva nemmeno abbastanza nella regione del Ngong. Per 3 volte avemmo una vera siccità e fu una tragedia. Un anno in cui la pioggia raggiunse 1,25 m, raccogliemmo 80 tonnellate di caffè. Un altro anno con 1,40 m, quasi 90 tonnellate, ma i 2 anni brutti in cui toccò solo i 60 o 50 centimetri ne ottenemmo meno di 16 tonnellate. Fu un vero disastro per la fattoria. Tanto più che proprio in quel periodo i prezzi del caffè erano scesi. Mentre prima ci pagavano 100 sterline alla tonnellata, ora riuscivamo ad averne appena 60 o 70. I tempi diventavano sempre più duri, non potevamo far fronte ai nostri debiti e non possedevamo il necessario per tirare avanti. I miei parenti, che avevano investito parte dei loro capitali nella fattoria, mi scrissero che dovevo venderla. Inventai tutti i trucchi possibili per salvarla. Un anno provai a piantare il lino nella zona non ancora coltivata. Le piantagioni di lino sono molto belle, ma richiedono grande abilità ed esperienza. Ricorsi per aiuto e consigli a un conoscente belga, un profugo. Costui mi chiese innanzitutto quanta terra intendessi seminare. 300 acri, rispose. «Sa, madame, c'est impossible!» esclamò. Al massimo disse potevo coltivare 5 o 10 acri se volevo riuscire, non di più. Ma 10 acri non bastavano a risolvere i miei problemi e ne seminai 150. Un campo di lino in fiore celeste chiaro, uno spettacolo stupendo. Pare un pezzo di cielo sulla terra e non v'è cosa più piacevole al tatto della fibra del lino, tenace, lucida, leggermente grassa. Quando ormai pronta, viene spedita, si segue il suo viaggio con il pensiero immaginandola trasformata in tante lenzuola e camicie da notte. Ma i kikuyu non potevano da un giorno all'altro e senza un controllo costante imparare a tirarla, macerarla, stigliarla. E la coltivazione finì per essere un fallimento. Quasi tutti i coloni in quegli anni stavano facendo esperimenti del genere. Molti alla fine trovarono la strada buona. Così accadde a Ingrid Lindstrom di Nioro, dopo aver faticato come una schiava per 10 anni con i suoi ortaggi, porci, tacchini, cespugli di olio di ricino e semi di soia, e dopo aver visto con disperazione andare tutto in rovina, riuscì a salvare la fattoria per sé e per i suoi piantando pietro, che veniva mandato in Francia e usato per i profumi. Io invece non ebbi fortuna con i miei esperimenti. Quando la siccità e il vento delle pianure di Ati cominciavano a tormentarci, le piante si ingobbivano, le foglie diventavano tutte gialle. In certe parti avemo anche le malattie del caffè. Per alimentare la coltivazione cercammo di concimare i campi. Imbevuta dei metodi agricoli europei, ero sempre stata contraria alle piantagioni senza concime. Venuti a conoscenza del mio progetto, gli squatters si offrirono di aiutarmi portandomi il concime ammassatosi in decine di anni nei bomas delle loro capre e delle loro greggi, un concime torboso e leggero, facile da maneggiare. Scavammo un solco fra i filari di caffè, con piccoli aratri ad un solo bue acquistati appositamente a Nairobi, e, non potendo entrare con il carro nei campi, le donne della fattoria si caricarono sulle spalle il concime in sacchi e andavano a spargerlo nel solco, un sacco per ogni pianta. Noi poi tornammo indietro con l'aratro e lo ricoprimmo. Era un bel lavoro e ci contavo molto, ma nessuno purtroppo ne vide mai gli effetti. La maggior parte dei nostri guai derivava dalla mancanza di soldi. Il capitale era stato consumato tutto quanto ai primi tempi, quando ancora non avevo preso in mano la fattoria. Nell'impossibilità di apportare miglioramenti radicali, ci toccava campare alla giornata. Gli ultimi anni ci rassegnammo a pensare che non vi fosse altro modo di vivere per noi. Se avessi avuto il capitale, avrei tagliato il caffè e al suo posto avrei piantato un bosco. Gli alberi crescono in fretta in Africa. Si può passeggiare tranquillamente sotto le stesse acace gli stessi alti e azzurri alberi della gomma che portammo con le nostre mani solo 10 anni prima, sotto la pioggia, in cassette prese dai vivai, 12 pianticine per cassetta. Se avessi posseduto un bosco, pensavo, avrei potuto vendere a Nairobi legname da costruzione e legna da ardere. Piantare un bosco è un lavoro nobile. Dopo molti anni si rievoca con gioia. Un tempo nella fattoria esistevano grandi tratti di foresta abbattuti in seguito dagli indiani che avevano acquistato il terreno prima di me. Era un vero peccato. Io stessa, negli anni duri, fui costretta a tagliare il bosco che circondava la fattoria per farne legna per la locomotiva. Di nulla mi sono mai rammaricata tanto nella vita. L'immagine di quei tronchi alti, di quelle ombre verde vivo, mi ha seguito a lungo. Ogni tanto, quando potevo, piantavo qualche eucaliptus, ma con ben miseri risultati. Avrei impiegato 50 anni di quel passo per arrivare a trasformare tutta la fattoria in un bosco canoro tenuto come si deve, con una segheria meccanica vicino al fiume. Gli squatters, però, avevano un'idea del tempo molto diversa da quella dei bianchi. Aspettavano, fiduciosi, il giorno in cui, come in passato, nel bosco che presto avrei cominciato a piantare ci sarebbe stata legna in abbondanza. Feci anche piani per allevare bestiame e organizzare un caseificio alla fattoria. A causa di un'epidemia di febbre della costa orientale, la nostra zona era infetta. Dovevamo disinfettare il bestiame di incrocio con un bagno speciale. Difficilmente potevamo competere con gli allevatori delle zone sane, benché la vicinanza di Nairobi ci permettesse di portare il latte al mercato con la macchina tutte le mattine. Una volta, avendo un'intera mandria di vacche incrociate, costruimmo appositamente un lavatoio, ma poi le bestie dovettero essere vendute. Il lavatoio abbandonato, ricoperto d'erba, pareva la rovina capovolta di un castello in aria. In seguito, quando la sera, all'ora della mungitura, scendevo al boma di Mauge o di Caninu e sentivo l'odore dolce delle vacche, provavo di nuovo il desiderio pungente di possedere delle stalle e un caseificio mio. Cavalcando per la pianura, mi pareva di vederla nell'immaginazione punteggiata di mucche pezzate come i fiori. Con gli anni, i miei sogni mi abbandonarono poco a poco. Alla fine li ricordavo appena. Mi auguravo solo che la piantagione di caffè rendesse abbastanza da mantenere la fattoria. Una fattoria è un compito grosso. Non solo gli indigeni, ma anche i miei dipendenti bianchi lasciavano sulle mie spalle tutto il peso della paura e della preoccupazione per il futuro. A volte mi sembrava che anche i buoi e persino le piante di caffè facessero lo stesso. Si sarebbe detto allora che per comune accordo delle creature parlanti e di quelle mute fosse da imputare a mia colpa se le piogge tardavano a venire e le notti erano così fredde. Mi pareva quasi di non aver diritto a starmene seduta tranquilla con un libro la sera. La paura di perdere la mia casa mi spronava ad uscire. Farah conosceva le mie passeggiate notturne. Dopo il tramonto, diceva, aspettando sulla veranda il mio ritorno, aveva scorto dei leopardi a girarsi nei dintorni. La sua figura vestita di bianco si distingueva appena nel buio, ma io avevo un peso troppo grosso nel cuore per pensare ai leopardi. Pur non ignorando i pericoli che mi circondavano, vagavo nella notte come un fantasma che ha avuto l'ordine di camminare, ma non sa dove sia diretto né perché. 2 anni prima di lasciare l'Africa, feci un viaggio in Europa. Tornai proprio nella stagione del raccolto del caffè e fino al mio arrivo a Mombasa non avrei potuto sapere com'era andata. Per tutto il tempo, sul battello, non pensavo ad altro. Quando stavo bene e mi sentivo ottimista, calcolavo che ne avremmo raccolte 75 tonnellate. Ma quando stavo male o mi sentivo nervosa, pensavo che non ne avremmo potute fare più di 60. Allorché Farah mi venne incontro a Mombasa, non osando a salirlo subito con le domande, evitai di proposito l'argomento. Ma la sera, sul punto di andare a letto, non resistetti. Quante tonnellate era il raccolto? Gli chiesi. I somali in genere trovano un curioso piacere nel dare l'annuncio di un disastro, ma quella volta Farah non parve affatto divertito. Il volto serio, le palpebre abbassate, la testa all'indietro, in piedi accanto alla porta, cercando di ringhiottirsi la tristezza, disse 40 tonnellate, Mem Sahib. In quell'istante seppi che non vi era speranza. Il mondo intorno a me sbiadì, perse vita e colore la stanza squallida e soffocante. Dell'albergo di Mombasa, con il pavimento di cemento, la lettiera di vecchio ferro e la zanzariera logora, divenne il simbolo e l'immagine amara del mondo, spoglio e ostile. Non feci più domande. Farah se ne andò senza una parola, lui, l'ultimo amico che mi restava in quel momento. Ma l'animo umano possiede una grande forza di ripresa. La notte, come il vecchio Knudsen, cominciai a pensare che 40 tonnellate sono sempre qualcosa. Il pessimismo, ecco il vizio mortale. Ora questo era l'importante, stavo tornando a casa. Avrei ripreso in mano la fattoria, la mia gente mi aspettava, gli amici sarebbero venuti a trovarmi. Di lì a 10 ore dal treno avrei scorto a sud-est la sagoma azzurra delle colline del Gong contro il cielo. Quello stesso anno ci furono le cavallette. Venivano dall'Abissinia, si diceva. Dopo 2 anni di siccità avevano preso la strada del sud, divorando tutto dove passavano. Strani racconti sulle loro devastazioni ne precedevano l'arrivo. A nord, dicevano, campi di gran turco e frutteti erano completamente spogli. I coloni mandavano messaggeri ai loro vicini del sud per annunciare l'approssimarsi dell'invasione, ma gli annunci servivano a ben poco. In ogni fattoria si approntavano grandi cataste di legna e gambi di gran turco a cui si dava fuoco al sopraggiungere dello stormo. Tutti allora uscivano sui campi armati di latte e barattoli vuoti, gridando e picchiando a più non posso per spaventarle e non lasciarle atterrare, ma era solo un modo di rimandare, e per poco. Per quanto spaventate, le cavallette non avrebbero potuto continuare a volare per sempre. Al massimo c'era da sperare di vederle approdare alla fattoria vicina. Più venivano messe in fuga, d'altronde, più affamate e rabbiose si mostravano quando scendevano sui campi. A sud della mia fattoria c'erano le grandi pianure della riserva Masai, non mi restava quindi che sperare di mandarle dall'altra parte del fiume, dai Masai. Già 3 o 4 messaggeri mi avevano annunciato l'invasione, ma non essendo ancora successo nulla, cominciavo a sperare che si trattasse di un falso allarme. Un pomeriggio, sulla strada maestra, mentre mi recavo a cavallo al nostro duca, l'emporio gestito dal fratello minore di Farah, Abdullah, per i contadini e gli squatters della fattoria, un indiano, su un carretto tirato da un mulo, mi chiamò con un cenno. Non ce la faceva raggiungermi in pianura. «Sulla tua fattoria stanno arrivando le cavallette, madam», disse quando mi avvicinai. «Me l'hanno detto tante volte», risposi, «ma finora non le ho viste. Forse la situazione non è così grave come si dice». Voltati, madam, per favore. Mi voltai e a nord, sull'orizzonte, vidi nel cielo un'ombra simile ad una lunga distesa di fumo, al nembo di una città incendiata. Una città di milioni di abitanti che vomita fumo nell'aria, pensai, o a una nuvola tempestosa che avanza. Cos'è? Chiesi. Le cavallette, rispose l'indiano. Le prime saranno state una ventina, le riconobbi mentre tornavo indietro sul sentiero attraverso la pianura. Passando accanto alla casa del mio amministratore, gli dissi di fare tutti i preparativi necessari per opporsi all'invasione. Guardammo verso nord. Il fumo nero era già più alto nel cielo. Ogni tanto una cavalletta ci sfiorava con un rumore secco nell'aria o piombando a terra si metteva a strisciare. E la mattina dopo, quando aprii la porta e guardai fuori, la campagna aveva il colore della terracotta, pallida e smorta. Gli alberi, il prato, il viale, tutto era uguale a perdita d'occhio. Pareva che durante la notte fosse caduto un pesante strato di neve rossastra. Le cavallette si erano installate. D'un tratto un fremito passò nella scena. L'unità si ruppe. Le cavallette si muovevano, spiccavano il volo. L'aria in pochi istanti vibrò tutta di ali. Andavano via. Quella volta non fecero molti danni, avevano sostato solo una notte, ora sapevamo come erano fatte. Lunghe 4 centimetri, grigio-bruno e rosa, viscose al tatto, solo posandosi su 2 grossi alberi del viale li avevano spezzati. A pensare che ognuna pesava sì e no qualche grammo, si aveva un'idea di quante fossero. Tornarono a più riprese. Per 2 o 3 mesi avemmo un'invasione dietro l'altra. Rinunciammo ben presto al tentativo, disperato e grottesco, di spaventarle. In certi casi giungeva solo un piccolo sciame, un gruppo indipendente, staccato dal grosso dell'esercito, che passava in una sola raffica, ma altre volte venivano in grandi stormi e continuavano a passare per giorni e giorni sulla fattoria, un'ondata ogni 12 ore. Quando è al culmine l'attacco, pare uno degli uragani dei nostri paesi. Un vento tempestoso pieno di sibili e fischi, e tutti intorno piccole ali, dure, furiose, splendono come il sottile lame di acciaio riverberando e insieme oscurando il sole. Formano dal suolo alla cima degli alberi come una cintura di sbarramento. Al di là l'aria è limpida. Ti ronzano contro il viso, ti entrano nel colletto, nelle maniche, nelle scarpe, si avventano instancabili intorno a te e ti stordiscono, dando uno strano malessere, fatto di rabbia e di disperazione, l'orrore della massa. L'individuo non conta, puoi ucciderne quante vuoi e sono sempre le stesse. Dopo che sono passate e scomparse all'orizzonte come una fascia di fumo pesante per giorni e giorni, sul viso e sulle mani dove ti hanno sfiorato, rimane una sensazione di disgusto. Un grande stormo di uccelli seguiva l'avanzata delle cavallette, volteggiando in larghi cerchi. Attendevano anche loro sui campi, nutrendosi a spese dell'orda, cicogne e gru, pomposi profittatori. A volte l'invasione durava a lungo. Non facevano molti danni alla piantagione. Le foglie di caffè, che somigliano a quelle dell'alloro, sono troppo dure da masticare. Spezzavano soltanto qualche albero qua e là. Ma i campi di Gran Turco facevano piangere. Dopo l'invasione non restava che qualche lembo di foglia secca sulle pannocchie spezzate. Il mio giardino vicino al fiume, irrigato e coltivato con tanta cura, ora era un cumulo di polvere, fiori, erbe, ortaggi, tutto sparito. Le sciambas degli squatters erano spoglie e bruciate, l'orda strisciante le aveva persino livellate. Qua e là, nella polvere, una cavalletta morta pareva l'unico frutto di quella terra deserta. Gli squatters assistevano impotenti. Le vecchie, che accucciate a testa china avevano faticato a zappare e seminare, agitavano ora il pugno contro l'ultima pallida ombra nera che spariva nel cielo. Ovunque passava, l'esercito si lasciava dietro stuoli di cadaveri. Molte, atterrando sulla strada maestra, erano state schiacciate da carri e carriole. Ora, allontanatosi lo sciame, i solchi delle ruote, come rotaie di una ferrovia a perdita d'occhio, erano costellati dai corpicini delle cavallette morte. Deposero anche le uova nella terra. L'anno dopo, finite le piogge, le piccole pulci nero-brune, le cavallette appena nate, fecero la loro apparizione. Ancora inette al volo, strisciano per terra divorando tutto quello che trovano. Finiti i soldi, dovetti vendere la fattoria, non riuscendo a farla rendere abbastanza. Fu acquistata da una grossa società di Nairobi, ritenendo che la località fosse troppo alta per il caffè, non volevano coltivarla. Avevano invece in mente di tagliare tutte le piante, dividere la terra e costruirvi strade. Al momento opportuno, quando Nairobi avesse cominciato ad estendersi verso ovest, contavano di vendere il terreno a lotti. Ciò sarebbe stato possibile, pensavano, verso la fine dell'anno. Non credo che, malgrado tutto, avrei trovato la forza di cedere la fattoria, se non per una ragione. Il raccolto del caffè spettava ai vecchi proprietari della fattoria o alla banca, che aveva un'ipoteca di primo grado, e il caffè, ancora acerbo, non sarebbe stato raccolto, lavorato nello stabilimento e spedito prima del mese di maggio. Nel frattempo, la fattoria era affidata a me. Sarei rimasta là. Le cose continuavano ad andare avanti, apparentemente come se nulla fosse cambiato. Intanto mi dicevo, chissà cosa poteva succedere, chissà che tutto non tornasse come prima. Il mondo, alla resa dei conti, non è uno schedario o un'equazione matematica. Così cominciò per me uno strano periodo. In realtà la fattoria non mi apparteneva più, ma così come stavano le cose, se non sapevo affrontare la situazione reale, potevo almeno fingere di ignorarla. La vita di ogni giorno non era cambiata. Di ora in ora imparavo l'arte di vivere nel momento, o, che è lo stesso, di vivere nell'eternità, in cui i fatti del momento contano ben poco. Stranamente, io stessa in quel periodo parevo non capire che avrei dovuto cedere la fattoria o lasciare l'Africa, Me lo sentivo ripetere dalle persone che mi stavano intorno, persone indubbiamente con la testa a posto, dalle lettere dei miei familiari, da tutti gli eventi della mia vita quotidiana. Eppure, nulla era più lontano dai miei pensieri. Continuavo a pensare che le mie ossa sarebbero rimaste a riposare in Africa. Quella mia fede incrollabile non aveva altro fondamento o altro motivo che la mia strana incapacità di immaginare qualcosa di diverso. In quei mesi si formò nella mia mente un programma, un piano strategico contro il destino e contro coloro che mi circondavano, suoi alleati. D'ora in avanti, pensavo, devo cedere su tutte le cose meno importanti per risparmiarmi pene inutili. Devo lasciare liberi i miei nemici di continuare i loro affari, le loro discussioni e le loro lettere. Alla fine, chi vincerà sarò io. Mi terrò la fattoria e la mia gente. Perderli, pensavo, non posso. Com'è possibile se non riesco a immaginarlo? Così fui l'ultima persona a rendersi conto che stavo andando via. Quando ripenso ai miei ultimi mesi in Africa, mi sembra che le cose inanimate fossero consapevoli della mia partenza molto prima di me. Le colline, le foreste, le pianure e i fiumi, tutto sapeva che ci dovevamo separare. Allorché cominciai a venire a patti col destino, iniziando le trattative per la vendita della fattoria, l'atteggiamento del paesaggio verso di me cambiò. Fino a quel momento io ne avevo fatto parte. La siccità era stata come una febbre per me, la pianura in fiore come un abito nuovo. Ora la terra si staccava da me, si allontanava un poco perché potessi vederla con chiarezza tutta intera. Non molto diversamente si comportavano le colline nella settimana che precedeva le grandi piogge. Una sera, all'improvviso, mentre le guardavo, compivano un ampio movimento e si rivelavano, si manifestavano, divennero distinte e vivide nella forma e nel colore. Quasi volendo consegnarsi a me con tutto quello che contenevano, quasi aprendosi per lasciarmi camminare sul loro verde pendio direttamente da dove ero seduta. Se ora un daino sbuca da un cespuglio, pensavo, vedrò i suoi occhi mentre volge la testa, vedrò come muove le orecchie. Se un uccello si posa su un ramo, lo sentirò cantare. Nelle colline di marzo quel gesto di abbandono annuncia l'approssimarsi delle piogge. Adesso per me annunciava la separazione. Altri paesi mi avevano fatto il dono di quella rivelazione. Ma avevo scordato cosa significasse. Sapevo solo che quella terra non mi era mai apparsa così bella. Mi pareva che contemplarla bastasse a rendermi felice per tutta la vita. Luce e ombra si spartivano il paesaggio, il cielo era attraversato da arcobaleni. Quando mi trovavo con altri bianchi, avvocati e uomini d'affari di Nairobi o con i miei amici che mi davano consigli per il viaggio, provavo un senso stranissimo di isolamento, un senso quasi fisico, quasi di soffocamento. Mi consideravo l'unica persona ragionevole fra tutti loro, ma una volta o due mi balenò in mente che se fossi stata una pazza in mezzo ai savi avrei avuto esattamente la stessa sensazione. Gli indigeni della fattoria, con l'inflessibile realismo del loro spirito, capivano fino in fondo la situazione e il mio stato d'animo, più che se avessi fatto loro una conferenza o avessi scritto un libro di confessioni. Ma continuavano a chiedere aiuto e sostegno a me. Nessuno cercò di provvedere da solo al proprio futuro. Facevano del loro meglio per farmi restare. Inventavano piani da affidarmi. Quando la vendita della fattoria fu conclusa, presero l'abitudine di venire a sedersi intorno alla mia casa, dall'alba fino a notte alta. Non volevano tanto parlare con me quanto seguire i miei movimenti. C'è un momento paradossale nel rapporto fra il capo e i seguaci. Il momento in cui essi, scorgendo chiaramente la sua debolezza e il suo fallimento, sarebbero in grado di giudicarlo con chiarezza e imparzialità, eppure continuano a rivolgersi a lui quasi che nella vita non abbiano altra strada da seguire. Lo stesso sentimento prova forse il gregge verso il pastore. Conosce infinitamente meglio della sua guida i luoghi e il clima, eppure continuerà a seguirlo, se necessario, fin nell'abisso. e chi cui avevano accettato la situazione meglio di me, per la loro maggiore dimestichezza con Dio e con il diavolo. Malgrado ciò, sedevano intorno a casa mia, aspettando i miei ordini. Probabilmente non parlavano d'altro tutto il tempo che della mia ignoranza e della mia incredibile incapacità. Si penserà che fosse duro averli sempre là dinanzi, sapendo di non poterli aiutare e sentendomi sulla coscienza il peso del loro destino, ma non era così. Sia io che loro, al contrario, trovavamo uno strano conforto e sollievo nello star vicini. La comprensione che ci legava aveva radici più profonde di ogni ragionamento. Pensavo spesso in quei mesi alla ritirata di Napoleone da Mosca. Si crede in genere che egli abbia passato giorni di disperazione, vedendo i suoi soldati soffrire e morire intorno a lui, ma forse senza di loro non avrebbe potuto sopravvivere. La notte contavo le ore aspettando il momento in cui Kikuyu sarebbero tornati a sedere davanti alla mia casa. Capitolo 2. La morte di Kinanjui. Lo stesso anno morì il capo Kinanjui. Una sera sul tardi uno dei figli venne a pregarmi di accompagnarlo al villaggio perché il padre stava morendo. Na taka kufa! Voleva morire, come dicono gli indigeni. Kinanjui era ormai un vecchio. Negli ultimi tempi un grosso avvenimento occorse nella sua vita. La quarantena della riserva Masai venne sospesa. Il vecchio capo Kikuyu si recò di persona con pochi seguaci nella zona più a sud della riserva a liquidare i suoi conti con i Masai e a riprendersi le vacche che gli appartenevano, nonché i vitelli venuti alla luce nel frattempo. Ma mentre era lì, una vacca gli dette una cornata in una coscia e la ferita andò in cancrena. Era una morte degna di un capo Kikuyu. Quando Kinanjui decise di tornare indietro era troppo tardi. O forse le sue condizioni erano troppo gravi perché potesse sopportare quel lungo viaggio. Forse, nel desiderio di riportare a casa tutti i suoi averi, non volle partire finché non ebbe raccolto tutto. O forse, affidatosi alle cure di una delle figlie sposate con i Masai, cominciò a dubitare che la giovane non ci tenesse poi tanto a farlo guarire. Quando finalmente partì, la sua gente si dette gran pena per ricondurlo a casa con tutte le cure possibili. Per lunghi tratti il vecchio, mortalmente ammalato, fu portato su una barella. Ora giaceva morente nella sua capanna e mi aveva mandato a chiamare. Il figlio giunse a casa mia dopo cena. Era buio quando ripartimmo in macchina insieme a Farah per recarci al villaggio. C'era la luna, ma appena nel primo quarto. Per strada Farah domandò chi sarebbe successo a Kinanjui. Il vecchio capo aveva molti figli e pareva che fra i Kikuyu esistessero tendenze contrastanti. Due figli, mi disse Farah, erano cristiani, ma uno aveva abbracciato il cattolicesimo romano, mentre l'altro faceva parte della chiesa scozzese. Le due missioni avrebbero certamente lottato per sostenere ciascuna il proprio pretendente. I Kikuyu, invece, ne volevano un terzo, più giovane, pagano. Gli ultimi 2 chilometri di strada erano poco più che un sentiero da capre, tra l'erba grigia di rugiada. Poco prima di arrivare al villaggio, dovevamo attraversare un fiumicello serpeggiante, color argento, dove trovavamo una fitta nebbia bianca. Sotto la luna, al nostro arrivo, la grande maniata di Kinanjui, un grande recinto di capanne, piccole baracche a punta che servivano come magazzini e bomas per il bestiame, era immersa nel silenzio. Entrando, alla luce dei fari, scorsi sotto una tettoia di paglia la macchina che Kinanjui aveva comprato dal console americano quando era venuto alla fattoria per fare da arbitro nel caso di Wanyan Gerry. Pareva un relitto, tutta rugginosa e nuda. Ora Kinanjui non ci pensava certo più. Doveva essere tornato alla tradizione dei suoi padri, voleva vedersi intorno vacche e donne. Il villaggio, apparentemente così buio, non dormiva. La gente era tutta in piedi e sentendo arrivare la macchina ci venne incontro. Non era come le altre volte. La maniata di Kinanjui era sempre stata un posto pieno di vita e di chiasso, come una fonte sgorgata dalla terra e dilagante tutto intorno, sotto gli occhi della figura centrale, benevola e solenne di Kinanjui, si incrociavano piani e progetti per l'avvenire. Ma ora vi aleggiava la morte. La morte, come un potente magnete, ne aveva alterato la fisionomia, creando nuovi gruppi e costellazioni. Era in gioco il benessere di tutti i membri della famiglia e della tribù. Là, in mezzo all'odore forte delle vacche, sotto la luce debole della luna, si sentivano vivere gli intrighi e i drammi che si svolgono da sempre intorno al letto di morte dei re. Quando scendemmo dalla macchina, un ragazzo con una lampada ci venne incontro per accompagnarci alla capanna di Kinangui. La dimora del re, benché molto più grande delle comuni capanne Kikuyu, non era arredata con molto più lusso. Tutto il mobilio si componeva di un letto di rami e redini intrecciati, nonché di qualche sgabello di legno. Sul pavimento di argilla battuta bruciavano due o tre fuochi. Il caldo era soffocante e il fumo tanto denso che da principio non riuscivo a distinguere nulla, malgrado la lampada antivento posta sul pavimento. Appena cominciai ad abituarmi, scorsi nella stanza tre vecchi, calvi, zio, consiglieri di Kinangui, una donna decrepita appoggiata a un bastone vicino al letto, una ragazza giovane e carina e un ragazzo di 13 anni. Quale nuova costellazione aveva creato nella camera del capo il magnete della morte? Kinangui giaceva abbandonato sul letto, morente. Già a metà preda della morte e della decomposizione mandava un odore così soffocante che da principio non osai aprir bocca per paura di sentirmi male. Il vecchio, tutto nudo, era sdraiato su una coperta scozzese che gli avevo regalato. Probabilmente non poteva sopportare nessun peso sulla gamba in cancrena. L'arto era terribile a vedersi, tanto gonfio che il ginocchio non si distingueva più. Alla luce della lampada vidi che dalla coscia al piede aveva delle strisce gialle e nere. Sotto la coperta era nera e umida, come se la ferita buttasse continuamente siero. Il figlio di Kinangui, venuto a prendermi alla fattoria, portò una vecchia sedia europea con una gamba più corta delle altre e la mise proprio vicino al letto per farmi sedere. La testa e il busto, scarni, rivelavano tutta la struttura del grande scheletro di Kinangui. Sembrava un'enorme scultura di legno nero, intagliata rozzamente con il coltello. Attraverso le labbra si scorgevano la lingua e i denti. Malgrado gli occhi appannati, lattiginosi, nella faccia scura, vedeva ancora. Quando mi avvicinai al letto, voltò lo sguardo dalla mia parte e continuò a fissarmi in viso finché rimasi nella capanna. Lentamente, lentamente, volse la mano destra dalla mia parte per toccarmi la mano. Soffriva in modo terribile, ma era ancora lui, in tutta la sua imponenza, nudo sul letto. Pensai, guardandolo, che era tornato dal suo viaggio vittorioso. A dispetto dei generi Masai, aveva ricondotto a casa tutto il suo bestiame. Stando là seduta, mi ricordai di una sua debolezza. Aveva paura dei tuoni e quando scoppiava un temporale faceva come le talpe, andava in cerca di una tana. Ma ora, là, non aveva più paura né del lampo né della pietra del tuono. Aveva semplicemente conchiuso, pensavo, la sua missione nel mondo. Era tornato a casa con la sua ricompensa. Se in quel momento possedeva abbastanza lucidità da ripensare alla sua vita, doveva accorgersi che in genere aveva avuto la meglio. Finivano là, nel suo letto di morte, una grande vitalità, una grande capacità di gioia, una stupenda energia. Che la tua fine sia tranquilla, Kinangui, pensai. I vecchi nella capanna stavano in disparte, quasi avessero perso la parola. Fu il ragazzo, probabilmente l'ultimo figlio di Kinangui, ad avvicinarsi al letto e a parlarmi secondo quanto dovevano aver concertato insieme prima del mio arrivo. Il dottore della missione mi spiegò, saputo della malattia di Kinangui, era venuto a visitarlo. Aveva detto ai Kikuyu che sarebbe tornato a prendere il capo morente per portarlo all'ospedale della missione. Il camion doveva giungere da un momento all'altro, quella notte stessa, ma Kinangui non voleva essere condotto all'ospedale. Ecco perché mi aveva mandato a chiamare. Voleva che lo portassi con me, a casa mia, subito, prima che tornassero quelli della missione. Mentre il ragazzo parlava, Kinangui mi guardava. Ascoltavo col cuore spezzato. Se Kinangui si fosse trovato in punto di morte in qualsiasi altro momento, un anno o anche soltanto 3 mesi prima avrei esaudito il suo desiderio e l'avrei condotto a casa con me, ma ora era diverso. Le cose negli ultimi tempi erano andate male per me e temevo potessero andar peggio. Avevo passato giorni e giorni negli uffici di Nairobi ad ascoltare uomini di affari e avvocati e a discutere con i creditori. La casa dove Kinanjui mi chiedeva di condurlo non mi apparteneva più. Kinanjui, pensavo guardandolo, stava per morire. Non potevo salvarlo. Sarebbe morto in macchina durante il viaggio o appena arrivati. Non solo i missionari, ma chiunque l'avesse saputo mi avrebbe fatto una colpa della sua morte. Tutto questo, mentre stavo seduta lì, nella capanna, sulla sedia rotta, mi pareva una responsabilità troppo grave. Non avevo più la forza di mettermi contro le autorità del mondo. Non avevo più la forza di sfidarle tutte. Non tutte. Cercai 2 o 3 volte di convincermi a soddisfare il desiderio di Kinanjui, ma ogni volta mi mancò il coraggio. Pensai allora che dovevo lasciarlo dove stava. Farah, rimasto vicino alla porta, aveva ascoltato il discorso del ragazzo. Quando vide che non rispondevo, si avvicinò e cominciò a spiegarmi, a voce bassa, con una certa insistenza, qual era il modo migliore di sistemare Kinanjui nella macchina. Mi alzai e raggiunsi il fondo della capanna per allontanarmi dallo sguardo e dal puzzo del vecchio morente. Non potevo condurlo con me, disse Farah. Di fronte a questa mia decisione, per lui in attesa, Farah si rabbuiò di colpo. Pur desiderando trattenermi ancora con Kinanjui, non volevo incontrare quelli della missione. Riaccostandomi al letto di Kinanjui, gli dissi che non potevo condurlo con me. Ogni spiegazione sarebbe stata superflua, ero tutto lì. I vecchi nella capanna, quando si resero conto del mio rifiuto, si raccolsero intorno a me, agitati, innervositi. Il ragazzo invece indietreggiò e rimase immobile. Sapeva di non poter fare più nulla. Kinanjui non si mosse, non cambiò espressione, ma continuò a fissarmi come prima, quasi di fronte a una pena già sofferta in passato. Forse era proprio così. Qua eri, Kinanjui, dissi. Addio. Le sue dita brucianti si mossero lievemente contro il palmo della mia mano. Non ancora giunta alla porta, volgendomi, scorsi la grande figura distesa del capo Kikuyu già sommersa dall'oscurità e dal fumo della capanna. Fuori faceva un freddo intenso. Ora la luna era bassa sull'orizzonte. Doveva essere mezzanotte passata. In quel momento, nella magnatta, uno dei galli di Kinanjui cantò 2 volte. Kinanjui morì quella notte stessa nell'ospedale della missione. 2 dei suoi figli il giorno dopo, nel pomeriggio, vennero a darmi la notizia. Mi invitarono anche al funerale che avrebbe avuto luogo l'indomani vicino al suo villaggio ad Agoretti.